142. Rossi d'uovo al canapè. Come mi ripugna di dare alle pietanze questi titoli stupidi e spesso ridicoli. Ma è gioco forza seguire l'uso comune per farsi intendere. È un piatto da servire per principio a una colazione. Se prendete norma da questa ricetta che fu servita a 5 persone. Formate 5 fette di midolla di pane quadrate, grosse un dito abbondante, larghe quasi quanto la palma di una mano, e fate ad ognuna una buca nel mezzo, ma che non sfondi. Soffriggetele nel burro e collocatele in un vassoio che regga il fuoco. Ponete nella buca di ognuna un rosso d'uovo crudo ed intero, e poi fate una balsamella con decilitri 3 scarsi di latte, grammi 40 di farina e grammi 40 di burro. Tolta dal fuoco, aggiungeteci 3 cucchiaiate colme di parmigiano, l'odore della cannella o della noce moscata e salatela. Lasciatela freddare e poi versatela sul vassoio per coprire i rossi d'uovo e i crostoni. Rosolatela alquanto sotto il coperchio del forno da campagna in modo che non induriscano troppo le uova e mandatela calda in tavola. Dove si trova il pane inglese cotto in forma, meglio è servirsi di questo.